delle piccole cose di Anna Migliorati. Quartiere? Vendita? Quartiere Martuccelli? Interno 24, ultimo piano. Grazie. L'ascensore è proibito ai fornitori. Pronti? Valsecchi, se vuoi sapere dove te trovi? Via dei Grigi di Martuccelli, televisore portiere Estrons, terzo piano, obiettivo ottavo. Come negli anni 60, come negli anni 70, si torna indietro nella crisi o si guarda avanti? È un po' il dilemma di questa economia nata dalla crisi, un mix tra vecchio e nuovo. Ben ritrovati da Anna Migliorati, come sempre gli aggiornamenti nei nostri giornali radio con i tanti problemi economici oltre che sanitari. Noi però qui vi raccontiamo come cambiamo noi e l'economia che ci sta attorno. Uno dei temi che è emerso in questi mesi difficili è il ritorno dei negozi di prossimità, quelli piccoli, raggiungibili a piedi, ne abbiamo parlato tantissimo, insieme al ritorno dei furgoncini per le consegne. Ed è un ritorno alla nostra storia di oggi, è stato un fenomeno la piattaforma nata sull'onda dell'emergenza Io Resto a Casa Delivery, che ha messo in rete i piccoli negozi per fare consegne a casa, soprattutto nelle zone più difficili, ma non solo. Ora che scatta la fase 2, in realtà molti continuano e continueranno a farlo. Ma ci racconta, torna con noi Carlo Tonello, ideatore dell'iniziativa. Buongiorno. Com'è andata? Che esperienza è stata? E cominciamo anche dai numeri. Quanti hanno aderito? La piattaforma non ha compiuto ancora 30 giorni, siamo quasi a 5.000 negozi, con sorpresa non solamente negozi nel settore degli alimentari, ma veramente in tutte le tipologie. Perché per molti piccoli, per molti negozi di vicinato, la riapertura non è solo riapertura, mi par di capire. La sensazione è quella che ormai il doppio binario resterà, almeno per un po', o forse addirittura a lungo termine. Secondo noi molti commercianti hanno preso consapevolezza che dopo questo tipo di esperienza in realtà hanno tutti gli strumenti per poter essere competitivi anche con i big dell'e-commerce, perché se i big dell'e-commerce ci hanno conquistato con la loro capacità di poter ordinare un prodotto e riceverlo dopo 24 ore o 48 ore, in questo caso il negozio di prossimità con l'e-commerce di prossimità avrà la possibilità di poter consegnare il prodotto il giorno stesso e quindi diventerà ancora più competitivo. E oltre a questo poi chiaramente ci saranno tutta un'altra serie di aspetti che le piattaforme di e-commerce tradizionale non sono in grado di poter offrire, come la consulenza, la familiarità, o un successivo step che andremo a fare dal 15 di maggio, di poter iniziare ad avere il loro piccolo carrellino di e-commerce, aver modo di poter ricevere direttamente l'ordine, la consegna con il proprio personale e ricevere anche attraverso i sistemi di pagamento che meglio crederai. Tanta modernità, parliamo di e-commerce, ma sistemi delle vecchie città italiane. Credo che per millenni ci siamo abituati a comprare nelle botteghe, nelle agorà dei nostri borghi e delle nostre città. Causa Covid ci ha riportato indietro al nostro non così tanto lontano passato e probabilmente da tutto questo una grande opportunità potrebbe essere veramente la rivalutazione dei piccoli negozi. Semplicemente perché attraverso questa esperienza forzata della digitalizzazione si sono resi conto che uscendo dal loro negozio in realtà hanno delle grandissime possibilità nel poter andare a curare i propri territori, i propri borghi. Noi già raccontando le origini di Io Resto a Casa Delivery, che a questo punto non è più solo Io Resto a Casa in qualche modo, ma mi muovo da casa, abbiamo detto che era un'esperienza nata a Milano, ma i 5.000 negozi non riguardano solo Milano. Avete avuto più richieste dalle grandi città o dai piccoli centri? Certamente Milano è quella che ha reagito maggiormente, nel senso che a Milano ci sono più di 800 realtà che hanno aderito a questo tipo di progetto, che sono veramente molte. Quindi Roma, piuttosto che Palermo, piuttosto che Catania, piuttosto che Bari, questi sono. Quindi la risposta è sì, maggiormente c'è stata una maggiore adesione nei capoluoghi. Grazie allora per essere stato con noi. Poi a presto, buon lavoro. Signora, signora! Venga, venga, non si preoccupi, è buonissimo! Non potrebbe venire qui lei? A ritirare il pacco e a firmare la ricevuta? No, sto facendo la maionese, non posso smettere, sennò impazzisce. Questo, il dove, ma cosa abbiamo comprato? Anche questo l'abbiamo seguito passo passo, anche su questo però è ora tempo di fare un bilancio del nostro carrello e allora... Piccola economia nel carrello della spesa. Riecco con noi Marco Colombo, Iri Group, ben ritrovato ancora una volta. Buon sabato a te Anna e buon sabato a tutti gli ascoltatori. Tiriamo le fila, 73 giorni più o meno di consumi non certo abituali, come si sono scandite queste settimane? Ci sono stati tre momenti ben chiari. Il primo momento, dal 21 di febbraio al 9 marzo, fase di panico e di accaparramento. Tutti compravano in quantità enormi. Poi il periodo del lockdown vero e proprio. È necessario pianificare, preparare le liste. È venuta meno la libertà di scegliere cosa, quando, dove e quanto comprare, soprattutto per economie di tempo o per la disponibilità di prodotto. Infine, il tentativo di far un nuovo quotidiano. In tutto questo i punti vendita sono cambiati, sembra un altro mondo rispetto a solo tre mesi fa. È aumentata l'importanza dei punti vendita di prossimità e dei punti vendita di convenienza, guidati da un lato dalla costrizione allo stare entro i famosi 200 metri da casa e dall'altro dalla preoccupazione di minori entrate. I supermercati piccoli sono cresciuti del 23,5%, i discount hanno incrementato le vendite oltre il 12%. Le grandi superfici hanno continuato e hanno peggiorato il loro stato di crisi. I centri commerciali, le nuove piazze, centri di aggregazione per grandi fasce della popolazione in parte sono stati chiusi e i negozi simbolo di questo modo di consumare, cioè gli ipermercati, le grandi superfici, hanno visto le vendite diminuire del 16%. L'altro punto importante è relativo all'e-commerce. Il commercio online ha visto un'esplosione delle vendite, addirittura più 135% nel periodo di emergenza. E ipotizzando tassi di crescita molto simili nei mesi che ci aspettano, ci si proietta a raggiungere oltre il 1,2 miliardi di euro di vendite nel 2020. Guardando avanti, le scorte che abbiamo fatto, ora che succede? Facciamo due esempi, la pasta di semola o il tonno sott'olio hanno visto da tassi di crescita nel primo caso del 46% la pasta e del 34% il tonno, ormai sono scese allo 0,4% e allo 0,3%, vuol dire che abbiamo pasta e tonno per un bel po' di tempo. L'altro elemento, guardando sempre al futuro, chi si è spostato sull'e-commerce, cosa intende fare ora? Che una quota di consumatori insoddisfatti per gli acquisti online ha già dichiarato di volersi spostare e ritornare a fare gli acquisti offline. Grazie allora anche per essere stato con noi passo passo a raccontarcelo tutte queste settimane. Grazie Anna e buona giornata a tutti. Proviamo a tirare le fila? Cosa abbiamo imparato? Cosa resterà? Ovviamente molte sono ancora le incognite che restano, ma intanto Pier Francesco Daveri, economista, direttore del programma MBA della SDA Bocconi, grazie per essere ancora con noi. Buongiorno. La crisi ci ha dimostrato che esiste anche la necessità di un commercio più al dettaglio, più vicino, più raggiungibile a piedi. Eppure molte, soprattutto delle grandi città, stavano andando verso altri modelli. Sarà possibile ripensare ad un modello diverso? Sarà necessario e alla fin fine magari ci ritroveremo che non è poi tanto male. Cioè il fatto di riuscire ad avere delle città un po' più multipolari, come forse anche Milano, aveva cominciato a essere, e maggiore possibilità di avere accesso a servizi che siano raggiungibili in modo conveniente senza dover andare troppo lontano. Ecco, un'inversione di tendenza però così repentina è sostenibile anche dal mercato del lavoro e dal sistema economico? Ad esempio smantellare o ridurre molti dei grandi centri commerciali e uno spostamento non è cosa così immediata? E non è detto che si debbano proprio smantellare i centri commerciali, bisognerà un po' ripensare le modalità di accesso, quindi non saranno più magari occasioni per avere così intrattenimento di massa, useremo la tecnologia per prenotare le nostre presenze nei negozi, ha già cominciato a essere così nei supermercati e credo che sarà così anche altrove. Tra l'altro i centri commerciali, proprio perché tutto questo ci ha portato ad una prospettiva diversa, avevano tra i loro punti di forza quello ad esempio di essere al chiuso e quindi freschi d'estate, caldi d'inverno. Si tornerà invece ad un modello in cui si circola all'aperto per motivi sanitari e in cui il passeggiare invece tra le vie delle nostre città torna ad avere una valenza diversa. Sì, anche se poi rimane da vedere se il passeggiare che finiva magari nell'entrare casualmente in un negozio piuttosto che nell'altro, in una certa zona della città piuttosto che nell'altra, non potrà più avvenire con entrate casuali dentro nei negozi perché uno rischia di trovarsi delle code. E poi di tutto questo ce lo siamo chiesti tante volte, una volta che l'emergenza sarà davvero finita e non temporaneamente solo congelata, l'eredità quale sarà? La cosa che rimane da capire è come si struttureranno i prezzi per i consumatori, saranno più alti o più bassi. Questo rischio di andare verso una high cost society, cioè ieri eravamo a everyday low price e adesso invece il rischio è che everyday high price, se di fatto non ci organizziamo bene. Però se la tecnologia viene usata bene per aumentare la concorrenza tra i nuovi piccoli che entrano, questo funziona. La questione dei prezzi che davvero è la grande incognita. Grazie allora per essere stato con noi. Prego, grazie a voi. A me non resta che darvi l'appuntamento a sabato prossimo. Un saluto da Anna Migliorati. Come sempre vi ricordo anche il nostro podcast, L'economia delle piccole cose. Pronti Valsecchi? Se mossa, ben do stai? Molo S24B, motonave Mimì. Ultima consegna e rientro. E rientrando ne compri duetti de Fontina. Signor sì, passo e chiudo.